Gli studenti germanici si davano in genere convegno quando uno di loro concludeva gli studi, cioè all'esame. Assiduo, ad esempio, a tali cerimonie d'esame fu Giovanni Pirckheimer. Giovanni Pirckheimer era il figlio di Hans, il corrispondente di Lamola, e è il padre di Willibald e di Caritas Pirckheimer. Ad esempio, ho trovato Giovanni Pirckheimer alla licenza in canonico di Enrico Enger di Norimberga il 7 agosto del 61. Poi l'ho ritrovato alla licenza pure in canonico di Enrico Geiger, anche di Norimberga, il giorno dopo. L'ho trovato presente all'esame di Simone di Velen il 2 ottobre del 61, di Enrico Mumester nel maggio del 64, del vicentino Matteo Mattarelli il 29 gennaio 65, in compagnia di Giacomo Molin. Giacomo Molin è un nobile veneto della famiglia Molin che dà per esempio in questo periodo il patriarca d'Aquileia, cioè Biagio Molin. E Biagio Molin è quello cui Leon Battista Alberti dedica un'opera, mi pare, di statua, ma potrei sbagliarmi. Lo ritrovo di nuovo il 9 maggio del 65 all'esame in medicina di Ermanno Benedetto di Bulak, poi lo ritrovo il 13 luglio, poche settimane dopo, si è appena laureato, Pirckheimer, e lo trovo alla licenza in canonico di Ludovico Weidner e insieme con lui c'è Ulrico Alben, canonico della cattedrale di Passavia, e Ulrico Paumgarten, canonico del Duomo di Ratisbona, oltre che beneficiario a Würzburg e Bamberga. Però c'è anche Giorgio Finzi, una persona di cui dovremo parlare, e c'è anche Stefano Tezza. Cioè, con queste schede d'archivio noi poco per volta ci ricostruiamo l'ambiente della nazio germanica padovana di questo momento. Quando Giovanni Pirckheimer torna in Germania, trova presto una degna occupazione nella umanistica Eichstätt. Presso il vescovo Guglielmo di Reichenau, che qualche anno prima, 1457, era stato a Padova vicerettore dei giuristi ed era quindi di nuovo necessariamente comparso a più di un esame. Trovo ad esempio a Padova Guglielmo di Reichenau il 28 settembre 1957 all'esame di Giovancarlo del Fusimone Tiraborghi di Bergamo, l'8 ottobre successivo all'esame dello Slesiano Venceslao Schmidt, il 9 giugno 1956 alla licenza in canonico di Giorgio di Friedberg di Augusta, insieme a Protasio di Zarnaora. Abbiamo trovato un umanista, il Pirckheimer. Abbiamo trovato un futuro vescovo, Reichenau. Abbiamo trovato un secondo vescovo, Protasio di Zarnaora e Protasio Boscovic, che ha nella storia della Boemia, nelle lotte ussite, un ruolo molto importante come vescovo di Olomouc. E in questo periodo però c'è di nuovo un altro umanista tedesco a Padova, Valentino Eber di Augusta, che viene licenziato ed approvato nemine discrepante il 24 settembre 1455, testi un buon numero di tedeschi, dei quali mi limito a ricordare, perché ricorrono nelle cronache della città di Norimberga, mi limito a ricordare Niccolò Muffe perché ritorna nelle cronache della città di Norimberga. Il padre di Niccolò Muffe si chiama anche Niccolò Muffe e per esempio a Norimberga aveva ospitato in casa sua l'imperatore, che gli aveva poi regalato un pezzo della spina della corona di Cristo. Comunque queste fanno parte fa parte della cronaca devota di Norimberga. E nelle stesse cronache di Norimberga noi troviamo altre persone che giocano un ruolo importante nella nazio germanica padovana di questi anni, il giurista Corrado Schut e poi Giovanni Glockengießer. Giovanni Glockengießer si licenzia in canonico il 28 giugno del 65, Corrado Schut diventa dottore in utroque il 23 aprile dello stesso anno. Testimoni alla laurea del primo troviamo Dominus Archiepiscopus Genoensis, vale a dire Paolo Campo Fregoso, e il fratello di Paolo Campo Fregoso. E poi troviamo dei tedeschi, Johannes Truxes de Wetzhausen, Vito di Bommersfelden, Antonio Paumgartner Junior, Giorgio Finzi, Stefano Tezzer. Non continuerò sempre a dare soltanto dei nomi, comunque vorrei dare un'idea delle persone che c'erano in questo decennio a Padova. Invece all'esame dello Schutz troviamo, oltre a Finzi e Tezzel, D'altra parte, Pinzig è stato il primo cancelliere dell'Università di Magonza, era prevosto di Santa Maria il Gradus a Magonza, è un ecclesiastico che nella storia tedesca è tutt'altro che di secondaria importanza. Cioè, queste cose non le dico per i tedeschi, per carità, le dico forse per gli italiani, per i quali questi nomi sono così un po' lunari, ecco. Testi, oltre a Pinzig e Tetzel, all'esame dello Schutz sono presenti Nikolaus Tekel, Ecclesiae Gabriensis Archidiaconus, Pancrazio canonico di Lubiana e poi Giovanni, per grazia di Dio, vescovo di cinque chiese, vale a dire Giano Pannonio. E in questo stesso periodo un altro poeta, Pietro Luder, Artium Doctor, si licenzia in medicina nemine discrepante, davanti al solito gruppetto di non disprezzabili nomi tedeschi. Siamo al 2 giugno 1464. Tra i poeti, tra i promotori di Pietro Luder abbiamo un professore poeta, Girolamo delle Valli, l'autore della Cristiade, uno dei testi poetici religiosi che al di là delle Alpi è stato addirittura usato per fare dei corsi accademici. Io ho visto a Berlino un grosso manoscritto testo di professore universitario dal quale risulta che la Cristiade è stata usata a Lipsia verso il 1490 per fare una serie di folletti. Un altro facitore di versi latini, Giovanni Michele Alberto da Carrara, diventa dottore nella stessa materia, cioè siamo di nuovo in medicina, il 29 gennaio 1465, mentre un quinto poeta, Pietro Barozzi, è fra i testimoni alla laurea in utroque di Niccolò Michieli, 2 marzo 1466. Un elenco di studenti, di esami, di testimoni, se può essere preso come sicuro punto di riferimento per l'inequivocabilità dei dati, non dà ancora un'immagine dell'ambiente intellettuale del periodo in discussione. Nell'elenco tutte queste persone assumono importanza per quello che fecero poi, quando divennero vescovi, statisti e statisti, mentre molto più importerebbe sapere quello che facevano a Padova. Non solo, ad esempio, quali professori ebbero per promotori, ma quali corsi seguirono presso i medesimi. Non solo quali umanisti italiani e tedeschi ebbero la possibilità di incontrare in Padova, perché l'archivio ci certifica che in quegli anni vi studiavano ad esempio Francesco Diedo e Bernardo Bembo, ma quali di questi umanisti furono veramente avvicinati da questo o da quel transalpino, che ne copiò questi e non altri scritti. Non solo quali libri scientifici e di umanità circolavano nell'ambiente universitario, ma quali veramente presero la via del nord, partecipando concretamente al fenomeno di stabilizzazione dell'umanesimo in una ben concreta città tra ben concrete persone. Va sottolineato che i tedeschi si occupavano anzitutto dello studio del diritto o della medicina, gli scopi del resto per cui erano venuti a Padova. Gli interessi umanistico-letterari erano un problema di pochi. D'altro canto, il codice di comportamento scolastico, raccolto in due fogli del Codice Latino Monacense 487, nel quale un quidam doctor ostendit, quomodo legendum vel studendum sit, ci rivela che quando dall'alto si intendeva aiutare a risolvere il problema del tempo libero e ad ampliare oltre i limiti della facoltà il bagaglio culturale, non si avevano in mente autori propriamente rivoluzionari. Cioè, in un codice di Monaco io ho trovato un galateo scolastico. Però questo galateo scolastico ci dice che in fondo all'università, quando si davano dei consigli per l'ampliamento della propria cultura, non si avevano degli orizzonti molto vasti. Ad esempio, item, frequenteret maxime, quando fueris tedio affectus, et tunc lectam lecionem memoriae tradideris, lege, moralitates, exclamationes semice, Seneca ad Lucilium, Valerium precipue, Libros Salomonis, Evangelia et Epistolas Pauli, unde apostolus, nolite iudicare secundum literam, que occidit spiritus autem vivificat. Igitur, non semper nude uni facultati insistas, sed rationem et intellectum ipsius, per scrutando sequere, eccetera. Due almeno degli studenti che ho ricordato hanno seguito il consiglio di leggere a Padova Valerio Massimo, e cioè Guglielmo di Reichenau e Giovanni Pirkheimer. Furono aiutati in questa lettura da Ulrico Gossendorf, il figlio del borgomastro di Augusta. Nella ricca biblioteca di Giovanni Pirkheimer sopravvive un Valerio Massimo che Giovanni Pirkheimer terminò di scrivere nel 1456. Giovanni ha letto attentamente il volume, lo ha cosparso di glosse e di note esplicative con rimandi a Virgilio, Cicerone e soprattutto al Corpus Juris. Del resto era uno studente di diritto. Giovanni Pirkheimer ebbe in mano questo Valerio Massimo quando ascoltava le lezioni di Ulrich Gossenbrod. Ulrico Gossenbrod incominciò il suo corso con una lunga prolusione. Ulrico parte dal luogo comune della giovane età della quale si scusa, confidente che non gli mancherà l'eloquenza, cum de historia humanarum actionum magistra, omnis veritatis parente, verba facturus sit. Segue l'elogio della storia sull'appoggio di testi ciceroniani, quello dell'eloquenza come scienza dell'espressione, senza la quale le altre discipline sono mute. Quidquid denique philosophi morales, ad excolenda hominum ingenia, constituerum, id omne dicendi viribus, in reliquorum animus, bonum esse induxero. Infine c'è l'elogio dell'arte poetica. Però Valerio Massimo non fu il solo autore che Ulrico Gossenbrod commentò a Padova. Anteriore a Valerio Massimo deve essere la lettura di Terenzio, testimoniata dall'orazione introduttiva indirizzata a un Georgius Suavissimus. Questo Georgius Suavissimus, per ragioni cronologiche, non può essere Giorgio Kvintzig, il quale Giorgio Kvintzig si immatricolò a Lipsia nel 58, divenne Baccalaureus Artium a Lipsia nel 60 e lo troviamo a Padova soltanto più tardi. Questo Georgius Carissimus, al quale Ulrico Gossenbrod dedicò la sua lettura di Terenzio, potrebbe, a mio avviso, essere Georg Beck de Friedberg, che abbiamo ricordato tra gli studenti di cui ho dato un elenco sopra. L'orazione introduttiva alla lezione di Terenzio è meno pretenziosa di quella introduttiva alla lettura di Valerio Massimo. È però di tanto più sopportabile lettura e in più dà qualche notizia interessante ai nostri scopi. L'autore si dichiara novus tirunculus in tam maximis ampissimisque negotiis e quindi non ha certamente ancora commentato Valerio Massimo. L'autore sente il bisogno di giustificare la scelta del testo col richiamo all'autorità scolastica e dogmatica di Guanino, ma intanto ci dice che fu un anno alla scuola di Guanino Veronese. Cioè ha fatto quello che molto spesso si faceva in Italia, si andava un anno ad una buona scuola di retorica e poi si passava alle facoltà che davano poi il pane. Guarinus inquam, qui sue domi bonis moribus, singulari dottrina me unum annum educabit, docuit forsa meteruvivit multa quidem de nostri terenzi utilitate, ornatu verborum sentenciarum gravitate, denique singulari in omni literarum genere prestancia narrare solenna. Cioè, incominciando a commentare Terenzio, Ulrich Gossenbrod si rifà ai corsi terenziani di Guarino. Ulrich Gossenbrod è stato in casa di Guarino, cioè ha fatto parte del convitto di Guarino. Il problema affrontato da Ulrico è la legittimità morale della lettura di Terenzio. A Padova, in quel momento, fuori dalla cerchia dei transalpini, penso che ben pochi si saranno scomodati a proposito del problema della legittimità della lettura di Terenzio. Invece, per i transalpini, il problema della moralità della lettura di Terenzio è in questo momento ancora un problema estremamente dibattuto. Tant'è vero che c'è una lettera di Hermann Schedel che riprende esattamente gli stessi argomenti a difesa della lettura di Terenzio che Ulrich Gossenbrod ha usato nella sua orazione inaugurale. Del resto è proprio Hermann Schedel che ci ha salvato queste due orazioni. Non solo, ma mentre, presso poco nello stesso periodo, mentre Ulrico Gossenbrod a Padova si occupava della moralità della lettura di Terenzio, a Vienna, nella cerchia di Guglielmo Traversagni, e di Wolfgang Windhager si discuteva la Questio que moveri possi contra Terenzio, e o quod obscene parti foveri videtur, dum semper errata adolescentum, optimo fine claudit infine, come diavo, e zic posset instar quod filis eius non sit mores defendere, malos impugnare et mores malos omnium corrigere, et ad bonus, per exempla, in libro posita invitare. L'autorità dogmatica su cui fondare la legittimità della lettura di Terenzio e dei libri gentilium in genere è, per Ulrico Gossenbrot, il Libellus Magni Basili, vale a dire la traduzione bruniana indirizzata a Coluccio Salutati ad Adolescentes. Di nuovo, in rapporto agli umanisti italiani, il figlio del borgomastro di Augusta si dimostra tutt'altro che originale. Quando però, nella serie di autorità chiamate a sostegno delle arti liberali, proprio da suo padre, il borgomastro stesso, troviamo il rimando esatto al passo basiliano chiamato in causa da Ulrico, ci rendiamo conto che i transalpini stavano compiendo opera sistematica di aggiornamento e faticavano su testi che negli ambienti avanzati della civiltà umanistica avevano da lungo tempo perso il sapore dell'inedito. Scrive infatti il borgomastro Sigismondo Gossenbrot postillando il trattato sulle arti liberali di Tommaso Oedenhofer. Tutti conoscono quell'enorme antologia che è conservata attualmente a Monaco e nel quale il borgomastro Gossenbrot ha raccolto un'infinità di appunti e di testi a difesa dello studio delle arti liberali. E questa antologia è piena di postille marginali dalle quali è stato ricavato un po' il quadro della biblioteca di Gossenbrot. Una di queste postille, a commento del trattato sulle arti liberali di Tommaso Oedenhofer, dice: «Ec de orsum ex prefazione Udalrici Cosmi Brotis, figli, quam ad audientes scolares perorare, dum etiam Terentium legere incoare. Manius Basilius in suo libello inquit, cumta tentanda sunt totis viribus incumbendum ad uius rei preparazione, et poetis et oratoribus etceteris scriptoribus eccetera». Cioè quell'orazione inaugurale che Ulrico ha tenuto a Padova si è diffusa negli ambienti tedeschi e ha fornito il materiale a giustificazione degli studi umanistici. La troviamo in una lettera di Hermann Scheder e la troviamo nelle postille del padre stesso di Ulrich, cioè Sigismondo Gossenbrot. Tra Padova, dove si trovava Ulrico, ed Augusta, dove era pretor Sigismondo, le comunicazioni epistolari erano frequenti ed i libri ne erano spesso l'oggetto. E infatti, viveva a Padova, tra altri, quel frate Sigismondo Meisterling che aveva guidato Enoch d'Ascoli nella visita alla biblioteca del Duomo di Augusta, collaborando alla scoperta del commento di Porfirione ad Orazio, e che, in mancanza di propri libri, qualche volta leggeva e postillava i libri degli Scheder e dei Gossenbrot. Enoch d'Ascoli arriva ad Augusta, incontra Sigismondo Meisterling, Sigismondo Meisterling lo porta alla Biblioteca del Duomo, nella Biblioteca del Duomo Enoch d'Ascoli riconosce il commento di Porfirione ad Orazio. Sigismondo Meisterling è un benedettino, non possiede molti libri, troviamo però i segni della sua scrittura sui libri del borgomastro Gossenbrot e sui libri degli Scheder. Ad esempio, Basilea c'è un codice petrarchesco postillato insieme da Sigismondo Gossenbrot e da Sigismondo Meisterling durante una vacanza in campagna. Da Santa Giustina, il Meisterling scriveva al borgomastro nel giugno del 61 per accompagnare l'invio di un De Civitate Dei finalmente corretto e difendere il proprio atteggiamento teologico di ispirazione patristica dalle critiche di quelli che egli chiama i teologi moderni, dei quali alcuni sono tanta ignorancia ex cecati, ut dum unum syllogismum scient formare, iactem cert publicent ac si omnium experientiam habeant rerum. Cathedras inquirunt, lectores magistrique volunt appellare, duces cecorum magistrique prorsus infancio. Certo, questo è un ricordo letterario, però. Quando Sigismondo scriveva questa lettera, avendo certamente in mente più di uno di quei diletti confratelli che gli rendevano difficile la vita ad Augusta nel monastero di Ulrich e Afra, la nazio germanica, oltre ad essere rappresentata da tutti quei nomi illustri già elencati, aveva dato alla facoltà giuridica di Padova un rettore, Giovanni Roth, che negli ambienti letterari tedeschi già si era fatto un nome per aver disputato con Gregorio Heinburg e Alberto di Haid, per aver tenuto l'orazione funebre per il conte Ulrico di Cilli, per contare tra i suoi corrispondenti Ludovico Rath ed Enea Silvio Piccolomini. Giovanni Roth è questa persona. Questa è la lastra tombale di Giovanni Roth, vescovo di Breslavia. Mi hanno detto che è nella Studentenkapelle, o Marienkapelle, che sarebbe l'unica cappella del Duomo di Breslavia non bombardata. Io l'ho avuta da un archivio di Varsavia e vi vendo le informazioni come le hanno vendute a me. È una lastra di bronzo ed è di origine norimberghese. Siamo verso il 1505, ve la faccio passare così ve la guardate, ma si chiama Pietro Tornagliero. Forse proprio grazie all'amicizia contratta in questi anni a Padova, più tardi Giovanni Roth si prese al servizio l'Ulrico Gossenbrod, commentatore di Terenzio e Valerio Massimo. Il ricordo del rettorato padovano del Roth è affidato ad una orazione accademica grazie alla quale il tedesco Roth ci appare in rapporto con un patrizio veneto, Francesco Barozzi, e con un esule bolognese, Bonifacio Bonfio, il primo autore del discorso, il secondo rettore uscente. Un minimo di prosopografia diventa purtroppo a questo punto necessario. Del resto, chi ha esperienza di storia accademica quattrocentesca sa che la ricerca prosopografica è il mezzo normale per popolare con persone, oltre che con nomi, i banchi universitari. Chi è Francesco Barozzi? Francesco Barozzi, autore del discorso, ebbe una rispettabile carriera ecclesiastica. Canonico di Bergamo, vescovo di Treviso, impiegato in Curia. Lo favoriscono sia i legami familiari con Paolo II, inoltre Giovanni Barozzi, patriarca di Venezia e suo fratello, sia la competenza giuridica, che gli è, ad esempio, riconosciuta nell'epitaffio compostogli da Pietro Barozzi, consultum bene iuris utriusque. Inoltre, Francesco Barozzi fece per qualche anno il professore di diritto canonico a Padova. La laurea padovana del Barozzi viene cantata in versi da Francesco Puzzacarini, altri versi gli manda Francesco Uberti, Francesco Barbaro e Ludovico Tredivisan sono tra i suoi amici protettori. Stando all'orazione di Francesco Barozzi, il rettore Giovanni Roth sarebbe proprio un protetto del Barozzi. La successione del rettore uscente Bonifacio Bonfio, in realtà le cose si svolgono in questo modo, Bonifacio Bonfio è rettore ma si laurea. Laureandosi scade di carica perché il rettore è uno studente. Si tratta quindi di eleggere il rector suffectus. Alle elezioni concorrono in due, un ungherese e il Roth. Grazie all'appoggio di Francesco Barozzi sfonda il Roth. L'intervento del Barozzi a favore di Giovanni Roth influenza in maniera determinante l'elezione. Proprio per celebrare la riuscita del suo candidato, cioè del Roth, il patrizio veneziano si assume l'incarico della laudatio di rito. E in questa laudatio dedica la prima parte al rettore uscente, cioè al Bonfio, e la seconda al Roth, cioè al rector suffectus. Lo schema è identico in tutte e due le sezioni e ripete quello usuale delle laudationes accademiche. Lode della patria, lode della famiglia, lode della persona del candidato. L'interesse principale consiste al solito nelle notizie biografiche da integrare quando si può con dati d'archivio o d'alta provenienza, non sempre abbondanti nemmeno per un rettore. Del resto, quando Francesco Barozzi deve fare la lode della famiglia di Giovanni Roth, non ha molte cose da raccontare. Intanto, inventa una mitica discendenza da Reto, eroe Enea della Rezia, cioè si tratta di una capriola resa possibile dall'affinità Retus Rotus. Poi parla del peso politico della famiglia Roth a Vendi, Bembighe è un paesotto, insomma, una specie di così di Rovereto. Svevo. Però in questa libera città di Vending, Francesco Barozzi ci racconta che il nonno di Giovanni Roth fu un personaggio politico di notevole importanza, però intanto non ne conosce il nome. Oh, a proposito del padre del Roth, Barozzi afferma che a Vending ebbe lo stesso ruolo che a Roma ebbero Scipione Africano e Marco Perrone. È evidente che Francesco Barozzi ignorava che Siegfried Roth, il padre di Giovanni, era Schumacher Maestro. Però la presunta importanza politica della famiglia Roth a Vending serve a superare uno scoglio causato dalla topica delle orazioni dottorali, dove il laureando appunto è nobile perché la patria è nobile, perché la famiglia è nobile e perché lui stesso è nobile. Orbene, dice il Barozzi, da buon veneziano, esistono due forme di nobiltà familiare. La nobiltà tedesca, arroccata nei suoi castelli e ignorante. E la nobiltà italiana, che diventa nobile intanto in quanto esercita le cariche pubbliche. La famiglia Roth è nobile di nobiltà italiana perché nella sua libera città ha esercitato le cariche pubbliche. E solo un veneziano può, o un fiorentino, possono fare ragionamenti del genere, insomma. Nella sua veste ufficiale di rettore, Bonifacio Bonfio è presente ad una serie di esame. Giacomo da Sole, 12 luglio 58, Battista da San Biagio, 29 luglio, Giovanni Moroni, 13 settembre, Giovanni Colle, 17 ottobre, Guglielmo Di Donato Borelli e Bartolomeo, e soprattutto per il nostro discorso umanistico-culturale, Bartolomeo Paiarini, 20 e 21 dicembre del 1458. Alla promozione di Bartolomeo Paiarini assistono anche i magistrati veneziani in carica, Andrea Bernardo Podestà e Antonio Venier Capitano, ed inoltre altri nomi sonanti della cultura e nobiltà specialmente vicentina. Giovanni Giorgio Roberto Chieni, Ludovico Pagello, il dottor Nicola Chiericati, Francesco Verlato, ogni bene dell'Onigo, Chierichino Chiericati. Bonfio continua nelle sue funzioni di rettore e il 21 dicembre, 22 dicembre, compare alla licenza e dottorato in utrocque di Nicolò Pühl e il 27 gennaio del 59, l'anno successivo, alla licenza e dottorato in civile di Francesco di Leone Lazzara. Certamente divenne legum doctor, lo testimoniano l'orazione del Barozzi, lo testimoniano documenti d'archivio, c'è il suo estimo padovano del aprile dell'83 dove è chiamato doctor, c'è l'altro estimo pure padovano del 29 aprile del 92 dove è pure chiamato doctor. Doctor è anche il titolo che l'accompagna nella vita civile e letteraria, è giudice dei malefici a Bergamo, è a seguito di Francesco Venier come podestà di Padova, è membro di un'ambasceria padovana a Venezia riguardante l'adempimento delle disposizioni relative all'istituzione dei terzi luoghi allo studio, cioè più o meno dei posti di assistente. E giudice a Treviso, vicario del podestà Giorgio Cornera a Brescia, eccetera, eccetera, è celebrato in versi da Girolamo Pologni. L'orazione di cui sto parlando, l'orazione di Francesco Barozzi per questi due personaggi, il Bonfio italiano e così personaggio di periferia, e invece il Roth, poi vescovo di Lavan, poi vescovo di Breslago, cioè grande principe dell'impero, e veramente responsabile per la formazione del circolo umanistico di Breslavia, l'Adversus, il libro in difesa della poesia di Augustinus Moravus è dedicato al nostro Giovanni Roth. Questa orazione è contenuta nel codice latino 350 della Bayerische Bibliothek di Monaco, interamente copiato da Hartmann Schell, il quale era studente a Lipsia quando l'orazione fu tenuta, ed era invece già a Padova verso l'inizio del dicembre del 1463 e quindi fece in tempo a incontrare in Padova Francesco Barozzi. Ho i miei dubbi che sia stato l'autore Francesco Barozzi che Hartmann Schell vide in Padova a rendere importante l'orazione agli occhi del tedesco, e tantomeno non rese importante l'orazione agli occhi del tedesco il Bonfio, che né allora né poi ebbe un posto nemmeno fra le glorie locali. A Padova Hartmann Schell non incontrò nemmeno Johannes Roth. La promozione accademica di Johannes Roth cade ad inoltrato anno 1460. Dopodiché Johannes Roth pensa a fare rapidamente carriera alla corte imperiale e il 24 febbraio del 65, mentre Hartmann segue a Padova i corsi in medicina, il Roth, Decanus Pataviensis, Consiliarius Imperialis, Nostre Cancellerie di Federico III, Protonotarius, viene elevato alla dignità di conte palatino. In parte il successo post-accademico, in parte il ricordo dei provvedimenti che il Roth prese durante il suo periodo di rettore, fece aumentare lo stipendio del rettore, fece regolare i problemi riguardanti il diritto di voto nelle assemblee per le elezioni del rettore, in parte anche la fama letteraria che il Roth si era già guadagnato quando era venuto a Padova, cioè tra il 1450 e il 1460, il Roth aveva avuto occasione di avvicinare non soltanto umanisti tedeschi come Rath, Ludwig Rath, Heinburg e Heine, ma aveva anche avvicinato Valla, Poggio, aveva avvicinato Valla, aveva avvicinato Filelfo. Queste sono delle ragioni che possono spiegare il perché Hartmann ci ha salvato questa pagina di storia germanica dell'Università di Padova. Ma insieme a questa pagina germanica, Hartmann ce ne ha salvato nello stesso codice altre del tutto italiane o venete, la cui breve illustrazione apporta altre aggiunte al quadro intellettuale padovano nel quale si muovevano gli umanisti transalpini di cui ho dato l'elenco. Nel codice, l'orazione del Barozzi per la coppia Bonfio-Roth è preceduta, fra altri testi veneto-padovani, dalle orazioni accademiche che Francesco Diedo e Antonio Bernardo pronunciarono rispettivamente per Bartolomeo Pagliarini e Alberto Badoer. Difficilmente saranno stati solo motivi di bibliofilia quelli che condussero Hartmann Schedel a conservare i due testi, anche se Hartmann Schedel ha conservato tutto però. Il Diedo, come Antonio Bernardo e come Bernardo Bembo, per citare un altro accademico padovano del periodo, godeva nello studio di autorità e fama tali da non poter... Devo dire che c'è una ricchezza di materia qui che è propriamente spaventosa e avrà forse la cortesia di parlare un po' meno... non è che non capisco l'italiano, ma c'è una ricchezza di materia che non si può assorbire quando parla così rapidamente, forse... Molto volentieri, purtroppo la mia natura... Sì, cercherò di così. Allora, io sto cercando di commentare una antologia, il Codice Latino Monacensis 350, copiato a Padova da Hartmann Schedel. Da questa antologia 350, Zelem 350. Da questa antologia ho tratto una prima orazione per una coppia di rettori. Però in questa antologia, che è una delle più simpatiche antologie padovane di questo bravo uomo di Hartmann Schedel, ci sono anche altri testi di interesse non più tanto tedesco, ma di interesse veneto-padovano. C'è ad esempio un'orazione che Francesco Diedo tenne per Bartolomeo Pagliarini e un'orazione che Antonio Bernardo tenne per Alberto Badoer. Io dubito che Hartmann Schedel abbia raccolto queste orazioni soltanto per motivi di bibliofilia. Francesco Diedo, Antonio Bernardo e Bernardo Bembo, in quel momento in Padova, nello studio, godono di una autorità e di una fama tali che non potevano sfuggire la loro presenza, il loro agire non poteva sfuggire ad un raccoglitore di memorie e reliquie come lo fu Hartmann Schedel. I documenti che permettono di fare a proposito di Francesco Diedo queste affermazioni, cioè che Francesco Diedo era un personaggio di grossa importanza in quel momento, non sono però soltanto di carattere archivistico, ma sono anche di carattere letterario, col vantaggio di una maggiore espressività rispetto alle secche voci delle carte. Intanto, a Francesco Diedo è dedicato il dialogo De Arbitris del giurista padovano Gian Giacomo Cano. La scena è in casa di Bernardo Bembo. Il dialogo si svolge tra Francesco Capodilista e Giovanni da Prato, cioè sono i nomi maggiori della facoltà di giurisprudenza in questo momento a Padova. Poi c'è un secondo dialogo del canone, De Costantini Donazione. Il secondo dialogo è dedicato a Francesco Sanudo e gli interlocutori sono Diedo, Bernardo Bembo, Angelo Ubaldi. Poi c'è un terzo dialogo, debole sempre di questo periodo e che ci aiuta a riempire la storia culturale padovana di questi anni. Un terzo dialogo, debole come creazione letteraria e come contenuto filosofico, che però ha il merito di metterci ancora più chiaramente a contatto con quella società accademica padovana dove il Diedo visse e che Hartmann Schedel osservò. Questo terzo dialogo è stato scritto ed è stato pubblicato nei Quaderni per la Storia dell'Università di Padova, è stato scritto da Leonello Chiericati, è dedicato a Niccolò d'Este e la lettera di dedica porta la data 1 aprile 1463. Cioè siamo a pochi mesi di distanza dall'arrivo a Padova di Hartmann Schedel. Non solo, ma i periodi di studio di Hartmann Schedel e dell'autore del dialogo, vale a dire Leonello Chiericati, sono perfettamente contemporanei. Leonello Chiericati si laurea il 10 luglio 66 in canonico. Hartmann Schedel l'aveva preceduto di non molte settimane nella facoltà di medicina. Il primo interlocutore di questo dialogo è Francesco Lauro Palazzolo. Francesco Lauro Palazzolo se ne sta andando a spasso per Padova e incontra vicino a Sant'Antonio Leonello Chiericati e discute con lui l'opportunità di andare a fare una visita a Francesco Diedo per fargli una consolatoria perché Diedo ha perso suo fratello Vittore. E vanno effettivamente a casa del Diedo. Insisto su queste storielle perché per cercare di mettere a confronto con la Padova reale, insomma, con quello che succedeva a Padova in quegli anni. E sulla soglia della casa del Diedo incontrano i professori Cristoforo da Recanati e Gaetano Chiene e inoltre Pietro Chiericati, fratello di Leonello. Entrano in casa e Cristoforo Recanati, da buon filosofo, si incarica della consolatoria e tiene al Diedo un bel discorsetto sull'immortalità dell'anima. Poi Recanati se ne va insieme a Pietro Chiericati e l'argomento del dialogo muta del tutto. Cioè Francesco Diedo chiede a Leonello se ha già pubblicato le sue traduzioni dal greco, cioè testi di Isocrate. E Francesco Palazzolo interviene e fa notare che Leonello intende dedicare le traduzioni a Niccolò d'Este, figlio di Leonello. Perché? E Nicola Chiericati, suo padre, era stato al servizio di Leonello e ne aveva ottenuto dei benefici molto concreti. Il figlio di Nicola Chiericati, Leonello, intende dedicare le sue cose al figlio di Leonello d'Este per ottenere più o meno gli stessi benefici. Questo più o meno il contenuto del dialogo, non presenta niente di interessante, meno che il farci muovere nella Padova di questi anni tra questi professori e questi studenti, cioè presentarci le persone che i nostri tedeschi hanno visto e coi quali hanno parlato. E adesso vedremo che con alcuni hanno veramente parlato. E all'epoca dei dialoghi di Gian Giacomo Can e Leonello Chiericati, Francesco Diedo era a Padova già da vari anni. Lo troviamo ad esempio a Teste nel 1956, poi se ne va per qualche tempo a Vicenza, poi torna a Padova ed è già dottore in arti, quando il 27 aprile del 1958 va a testimoniare al dottorato di Filippo Podocataro. Nel 1460 Francesco Diedo diventa rettore. Diedo esce dunque veramente dalla categoria degli studenti comuni. La sua orazione che Schedel ci ha raccolto nel Codice Latino Monacense 350 contiene materiale da interessare chiunque sia appassionato di memorie patavine. Attraverso l'esaltazione del neodottore, il Diedo coglie l'occasione per esprimere gratitudine alla città di Vicenza, dovuta a motivi personali, e per magnificare le famiglie Pagliarini e Chiericati, che avevano dato allo studio padovano eccellenti insegnanti e allievi divenuti poi personalità ben note nella vita politica veneta e italiana. ne esce fuori una lode insistente di studio e vita politica come di inscindibili ornamenti dell'uomo in perfetta coerenza con l'atteggiamento ufficiale e la prassi normale del patriziato veneziano. Non ci si può nascondere l'impressione che la classe veneziana di governo approfittasse proprio delle cerimonie accademiche per propagandare la propria ideologia. Il codice però, solito codice latino monacense 350, dal quale continuiamo a trarre materiale, oltre che indicazioni di contatti molto verosimili tra mondo germanico e umanesimo italiano, ci permette finalmente di descrivere episodi di vita umanistica dove uno studente letterato tedesco, Hartmann Schedel, oltre che osservatore, appare a diretto colloquio con gli esponenti della vita accademica e letteraria padovana di quegli anni. Il 4 aprile 1464, Hartmann si trova a Padova dal dicembre dell'anno precedente, Hartmann termina di scrivere un'orazione accademica in lode del medico Matteolo Perugino, suo professore di medicina. La coppia. E scrive il nome dell'autore, il titolo, eccetera, eccetera. Per Petrum Laurum Patavinum, Oratio in laude Matteoli explicit. 4 aprilis 1464. Il titolo dell'orazione suona: Petri de Palazzolis Patavini, ingenui adolescentis, Orazio in laudem Matteoli Perusini. La data si riferisce non alla trascrizione, ma al momento in cui l'orazione fu pronunciata in un solenne atto accademico al quale lo stesso Hartmann aveva assistito, lasciandone il ricordo in nota. Di seguito all'orazione. Petrus Laurus, artium doctor, medicinae scolaris, patavinus adolescens primarius, miique non vulgari benivolentia, sed inviolabili amicici federe coniuntissimus, cioè Pietro Lauro è un amico personale di Hartmann Schedel. Me presente, anco ratione, ornatissime absolvi. Padue, anno quo supra. Is anno eccetera, 65, in generali peste, diem obili. Et frater sus, doctor iuris poetaque optimus. Et plures de familia eius. Quorum anime in sancta quiescan pacem feliciter. Amen scripsi ad manu Schedel de Nuremberga. Cioè, in questa nota Hartmann ci dice che lui era amico personale di Pietro Lauro e che Pietro Lauro morì nella peste del 65 e che nella peste del 65 morirono anche altri membri della famiglia di Pietro Lauro. L'interesse intrinseco dell'orazione relativo, questa orazione ruota intorno alla molteplicità del sapere che un medico deve avere, eccetera, eccetera. Anche l'informazione bibliografica non è molta. Pietro Lauro Palazzolo ricorda solo alcune orazioni di Matteolo Perugino, mentre Hartmann Schedel stesso ha raccolto un corpus di orazioni di Matteolo Perugino molto più ampio. Tornando alla nota, essa ci rivela che Hartmann era in stretto rapporto con la famiglia del professore Lauro Palazzolo. Non ho infatti alcun dubbio nell'identificare in Pietro Lauro un figlio di questi. Resta invece di identificare il fratello di Pietro Lauro, doctor iuris poetaque optimus, pure rapito dalla peste nel 1465. E non è ma... Io mi permetto... Dica. Scusate, vero, ma io direi questo. Quello che sta dicendo il professor Sottili è di una tale ricchezza e per certi aspetti di un tale interesse che se siamo d'accordo lo preghiamo di continuare leggendo il testo com'è. Non so voi che opinione siete, ma... mi pare che gli argomenti siano, i problemi siano estremamente interessanti. Oltretutto, nel nostro discorso entrano una serie di problemi di vita universitaria in età umanistica estremamente concreti. Ecco, non so, direi che forse è bene non perdere questi elementi che sono di vita concreta, ecco, poiché in fondo il nostro seminario ha finora tenuto questo, io sono stato un po' una eccezione stamattina, anche per delle ragioni di natura di inquadramento, ma il nostro seminario ha avuto sempre un carattere di indicazioni particolari, quindi io proprio la pregherei se credo. Oh, io volentieri, se non annoio. No, se proprio, ecco, se dei particolari possono. Adesso scusi nessuno, se nell'economia del discorso. Qualche particolare può essere meno essenziale, lo può anche omettere se crede, ma direi non ti privi dell'essenziale di quello che ti sta dicendo, perché Lei diceva giustamente che ci troviamo di fronte a degli episodi di vita concreta universitaria, rapporti reali che è bene non perdere. Ecco, sono indicazioni che all'inizio sono preziosi, ognuno di noi ogni tanto, come dire, come diceva quel tale, leva il cappello a personaggi che conosce e conosce degli altri che prima non conosceva, quindi posso pregarle, vero? Sì, molto volentieri. Cercando allora di continuare a chiarire il rapporto di Hartmann Schedel con questo mondo accademico padovano, si tratta di vedere, oltre a Pietro Lauro, chi è l'altro, il fratello di Pietro Lauro, che morì pure nella peste del 65 e che Hartmann a Padova incontrò. Oh, il più noto dei figli del professor Lauro Palazzolo, tra l'altro era una famiglia molto ricca, basta andare a guardare gli estimi all'archivio di Stato di Padova per vedere che quelli erano dei grossi proprietari terrieri, insomma, compravano e vendevano, così, disponevano di insomma, in fondo il mestiere di professore forse era un hobby, ecco, la ricchezza gli veniva dalle proprietà terriere. Il più noto dei figli del professor Lauro Palazzolo è Antonio Lauro. Antonio Lauro è giurista come il padre ed è dotato di spiccati interessi letterari. Si licenzia nel 61 in civile, 2 maggio. Si addottora solennemente il giorno 11. Viene ammesso al Collegio dei Giuristi, diventa podestà a Novare a Milano. Lo ricordano documenti d'archivio del 67 e dell'89. L'estimo dei beni di Antonio Lauro viene presentato, ad esempio, nel 1473 da Ser Ludovico Palazzolo, il fratello di suo padre, e comprende dei beni del professor Lauro. Quindi siamo sicuri che Antonio Lauro è il figlio è il figlio di Lauro Palazzolo. Allora, scartato Antonio Lauro, non ci resta che ripiegare ad identificare quel frater Eius, morto di peste, non ci resta che ripiegare su quel Francesco Lauro che compare nel dialogo padovano di Leonello Chiericati, di cui poco sopra ho dato il riassunto. Questo Francesco Lauro, terzo tra i figli del professor Lauro Palazzolo, era chierico. Aveva ricevuto la prima tonsura nella cappella di San Massimo del Palazzo Vescovile di Padova il 6 luglio del 46. Era doctor iuris, come vuole la nota di Hartmann Schedel, avendo ottenuto la laurea in civile il 13 aprile del 61 e già quandam famosi iuris utriusque doctoris, domini lauri de Palazzoli Stefano, ottiene la laurea in canonico il 26 novembre del 64. Oh, era veramente poeta, sapeva fare infatti dei versi che sono stati raccolti da Giovanni Bernardo delle Valli, cioè il figlio di Girolamo delle Valli, autore della Cristiade, della Gesueide. Questi versi che Giovanni Bernardo delle Valli ha raccolto si trovano nella biblioteca di Hartmann Schedel, perché Hartmann Schedel comprò, ottenne, ebbe il manoscritto nel quale Giovanni Bernardo delle Valli aveva raccolto questi versi di Francesco Lauro. È il Codice Latino Monacense 78. La peste nel 65 faceva altre vittime. Hartmann Schedel però scappava da Padova e si sfuggire alla peste, scappava da Padova e si rifugiava sui Colli Eugani. E sui Colli Eugani passò il suo tempo a trascrivere le recette Super Nono Almansoris di Bartolomeo di Santa Sofia. E si mise insieme un bel codice e al codice fece precedere l'immagine a colori e a piena pagine del medico. Ed è questa. Cioè, per sfuggire alla peste, Hartmann Schedel lascia Padova e scappa sugli Eugani e trascrive le ricette Super Nono Almansoris di Bartolomeo di Santa Sofia e si fa un bel codice al quale fa precedere l'immagine del medico. È a colori ed è a piena pagina. E sotto l'immagine trascrive un epigramma: Exaratum in muro Padue, ubi itur de Ecclesia Cathedrali ad Curiam Episcopale. Cioè, ha copiato l'epitaffio di Bartolomeo da Santa Sofia, che io a Padova non ho più rintracciato, che non ci deve più essere, e che si trovava in muro ubi itur de Ecclesia Cathedrali ad Curiam Episcopali. Il testo dell'epigramma trascritto da Schedel ha un verso in più, il terzo rispetto a quello, rispetto all'epigramma, l'epitaffio a stampa, raccolto nella raccolta delle epigrafi padovane del Salomonio. E mentre Hartmann Schedel passava il tempo scrivendo libri sui colli euganei, a Padova la peste continuava a fare delle vittime nel corpo insegnante. Moriva il professore di medicina Matteo Boldieri e moriva il professore di retorica Antoniolo. E il manoscritto latino 363 della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, in questo manoscritto Hartmann Schedel ha copiato un consilium di Matteo Boldieri, concludendolo con una delle sue solite curiose note. Finit consilium breve et utile, clarissimi doctoris Matei de Verona. Qui lezioni ordinarie practice padue prequit. Obit autem prescriptus solemnis doctor, anno eccetera 1465, in vigilia Nativitatis Mariae, 7 settembre, in duplici quartana, tempore pestis, Verone. Stando al ritratto che Hartmann ci ha conservato nel codice latino 3 foglio 17 versi di Matteo Boldieri, il nostro Matteo Boldieri era veramente un solemnis doctor e anche così, insomma, molto, un aspetto molto professorale. Anche questa volta, come nel caso di Bartolomeo di Santa Sofia, sotto il ritratto c'è un epitafio che però è un falso di Schedel. Cioè è un adattamento a Matteo Boldieri di un epitafio in realtà composto per Bartolomeo da Montagnana. E Bartolomeo da Montagnana è questo altro, di nuovo da un codice schedeliano con l'epitafio relativo sotto, con testi di medicina di Bartolomeo da Montagnana. Però, oltre al ritratto e allo sballato epitafio, il codice contiene anche testi del professore Boldieri, conclusi ancora una volta da note di Hartmann. Finit opus egregium aggregazioni simplicium medicinarum diversorum autorum, secundum aureolas principis avicenne ordinatarum, ingenti labore, per excellentissimum artium et medicinae doctorem Matteum de Bolderis Veronense. Qui, padue, con pluribus annis, summa laude ordinarie lecioni in pratica accuratissime prefui, et ibi in sacra medicina continue laborava, et tamquam mel in favis abditam dulcedinem inea gloriosissime excerpsi. Ad laudem Christi Jesu. Amen. E sotto ancora, scripsi Armanus Schedes de Nuremberga, anno domini 1464, in florentissimo Padavino Gymnasium, ob precipum conatum prescripti autoris preceptoris mei amantissimi. Abeo libro, quem manu propria conscripsi, e a enim tempestate, leggendo e praticando, summa diligentia divinos perfecit effectos. Laudes infinite, Deo optim maximo. Cioè Hartmann Schedel si è copiato i testi del suo professore dall'autografo di Matteo Boldieri stesso. Hartmann Schedel ascoltò le lezioni di Matteo Boldieri per 2 anni accademici. Infatti, di Hartmann Schedel noi conosciamo il piano di studi. E nel piano di studi di Hartmann Schedel leggiamo: auscultavi leciones suprascriptas, ac sub doctoribus et tenitoribus infrascriptis padue militavo. E per il primo anno, 1463-64, apprendiamo che Dr. Matteus de Verona legit librum nonum Almansoris et complures fena vicenne terci libri viderici decimam, undecimam, decimam octavam, decimam nonam, vigesimam primam, eccetera. Per il secondo anno apprendiamo che Dr. Matteus de Verona in practica ordinarius legit primam fenco arti canonis cum exposizione conciliatori, cioè conciliatoris vale a dire Pietro da Abano, et librum microtegni Gallieni et Isagogas Ionici. Purtroppo il piano di studi di Hartmann registra solo il curriculum dello studente di medicina. Vi troviamo quindi soltanto l'elenco dei corsi e dei professori della facoltà di medicina. Da Matteolo Perugino, a Paolo da Fiume, a Francesco da Noale, ha ricordato Boldieri, a Girolamo delle Valli, ad Antonio Mussato, eccetera. Del resto, Hartmann era venuto ad antiquissimo e florentissimum studium patavinum, già Artium Liberarium Magister, e si trovava quindi oltre lo stadio degli studi propedeutici, e ufficialmente non avrebbe avuto bisogno di andare ad ascoltare i professori della facoltà di arte, dei quali invece mostra di conoscere alcuni molto bene. e anzitutto quel ricordato Antoniolo, pure vittima della peste del 1465. Cioè Hartmann è una persona curiosissima, non si è limitato ad ascoltare i professori della sua facoltà, ma è andato anche alla facoltà di arti a sentirsi i retori, e tra questi anche Antoniolo. Mi soffermo su Antoniolo perché ho l'opportunità di fare un piccolo restauro. E nell'epistolario dell'umanista Giorgio Valagussa compare un Antoniolo che ha lasciato la scuola di Guarino e se n'è andato a Padova, dove si è portato un volume di raccolte riguardanti il corso guariniano sul De Oratore, che gli altri allievi di Guarino cercano invano. Inoltre, nell'orazione funebre di Ludovico Carbone per Guarino Veronese è menzionato tra i discepoli del grande retore, divenuti famose, anche un Antoniolo, insegnante a Padova. L'editore delle epistole del Valagussa ha identificato Antoniolo con Antonio di Lauro Palazzolo. Hartmann Schedel, però, ci ha conservato una Orazio Clarissimi Poete Antonioli, Inizio Studii, abita Padua, anno Christi Jesu 1464, in die Beatissimi Martini. In seguito a questa orazione, Hartmann Schedel informa: anno sequenti, videlicet 65, Padua, autumnali tempore, prefatus Antonellus, poeta clarissimus, qui undecim annis, publice ordinarieque legit, vitam brevissimo tempore epidemie cum morte mutabit. Allora, a Padova, Antoniolo o Antonello, il professore di retorica, ha incominciato ad insegnare verso il 1454. Vi si trova quando Francesco Buzzaccarini manda a Giovanni Marcanova un carme pieno di lodi per un retore di nome Antonio, nel quale si è visto di nuovo Antonio di Lauro Palazzolo, e invece in questo retore lodato dal Buzzaccarini dobbiamo vedere il professore padovano Antoniolo o Antonello. L'anno accademico che Antonello inaugurava l'11 novembre 1464 seguiva ad un periodo difficile per la vita dello studio patavino e per quella particolare dell'oratore stesso. La peste che tornò ad infierire nell'estate del 75 e nella quale Antoniolo morì si era infatti già fatta sentire anche nell'estate del 64, facendo scappare gli studenti e mietendo vittime tra i professori e le loro famiglie. Antoniolo perdette la moglie e dovette restarsene chiuso in casa perché sospetto di contagio. Insisto, queste notizie noi le dobbiamo tutte da Hartmann Schedel. Non poté partecipare il nostro Antoniolo, ad esempio, alle elezioni accademiche, vale a dire al rinnovo degli incarichi di insegnamento. Però aveva un santo in paradiso, cioè aveva l'appoggio del rettore Oddo Matteo, che tra l'altro aveva provocato la chiamata a Padova di Cristoforo da Recanati. E Oddo Matteo, rettore, provoca la conferma dell'incarico per Antoniolo. Nell'orazione raccolta da Schedel, in cui Antoniolo ci racconta queste cose, dice Antoniolo, ci dovrebbe essere anche la laudatio dei singoli professori allora attivi a Padova, però non c'è tempo. E allora Antoniolo si limita a lodare Matteo Bolgheri, quello morto nella peste del 65, come ci ha detto Hartmann Schedel. Però Antoniolo vuole dedicare in seguito ad ogni singolo insegnante una orazione particolare, come del resto aveva già fatto a proposito di Matteolo Perugino. Inutile dire che Hartmann Schedel, anche nell'estate del 1464, come poi l'anno successivo, di fronte alla peste, adottò il Remedium Fuge. La sua inesauribile attività di copista e la lodevole abitudine di datare il lavoro ci permettono di seguirlo molto da vicino. 7 aprile 1464 Hartmann Schedel copia un consiglio di Saladinus Ferrus de Esculo. Per Dominum Saladinum Ferrum de Esculo, Liberalium Martium et Medicinae Doctore, anno Domini 1448, die illa devotissime vigilie nativitatis Domini in monopoli Civitate Apulie. Però, scriptum padue, eccetera, anno 64, die octava mensis aprilis, per me Hartmann Schedel de Nuremberga. Il 1 maggio, Hartmann Schedel termina di trascrivere un'orazione di Matteolo Perugino. Poi va a sentire il corso sul De Remedio Amoris di Peter Luther. e segna in fondo all'esemplare che ha usato per fare gli appunti: auditus a magistro Petro Poeta, medicina e dottore, anno 64, die septima iuni in Padua. Subito dopo, Hartmann Schedel scappa a Conegliano, come egli stesso ci racconta nell'Opus Antiquitatum. Cioè, appena terminato il corso, a Padova si rivela la peste e Hartmann Schedel se ne scappa a Conegliano. Pestis severissima, quecum in Italia debaccata est, secondo anno mei adventus, pluresque urbane multitudini somine sextinsisse, Georgius Finzi, conterraneus meus, poste a plebanus Santi Laurenzi in Nuremberga, et prepositus Maguntinus, ad gradus, et demum auditor rote romane, ubi et vitam finivi, et ego, vitande epidemie gracia, ad coniglanum, oppidum, tamquam ad saluberrimum locum, successivos, ubi per duos menses, autumnali tempore, moram contraximus, ad litteris humanitatis, opera deus. Cioè, scoppia la peste e Hartmann Schedel e Georg Finzi scappano a Conegliano, restano due mesi e si dedicano agli studi umanistici. Il soggiorno fu un poco più lungo dei due mesi menzionati. Venne però veramente impiegato per studi, almeno per studi, diciamo, ampiamente umanistici. Il 22 giugno a Conegliano Hartmann termina di scrivere il De origine iuris Caesarei di Johannes Arnoldi. Seguono il 13 luglio un gruppo di scritti grammaticali, De metris e De finalibus litteris di Servio. 13 settembre Alberici Isagoge in poemata virgiliana, 23 settembre Catilinarie, 28 e 2 ottobre materiale esegetico su Terenzio, 11 ottobre termina di scrivere le lettere di Poggio e il 28 di ottobre le epistole di Faraide. Finalmente, ma solo il 7 novembre, Hartmann Schedel non è più a Conegliano, ma è ritornato a Padova. E a Padova termina di copiare la Prodeiotero. Il 9 di novembre termina di copiare la traduzione bruniana dello Hierum di Senofonte. Il 10 di novembre se ne va a sentire la produzione, l'inaugurazione del corso del professor di greco Demetrio Calcotti. Gli studi a Humanitatis sono però in età schedeliana qualcosa di più che uno studio d'autori e comprendono una buona zona archeologica e antiquaria. Hartmann Schedel ebbe l'intelligenza di ampliare l'antiquaria dall'antichità classica al Medioevo e all'età sua e di copiare curiosamente da Padova ad Arqua, a Venezia e Conegliano iscrizioni medioevali e di descrivere monumenti. La nota sul soggiorno a Conegliano, letta poco sopra, continua. Cunque ad Oppida et Basilicas Loci, vale a dire a Conegliano, nos contulissemus de nomine eius ac epitafiis sequentia collegibus. Cioè, a Conegliano si è informato sull'origine del nome Conegliano e ha copiato delle epigrafi. Sono quattro. Una, sub Leone alato in loco iudici. Due, in Ecclesia Santi Benedicti. La quarta in ambito monasteri minoro. Io ho fatto delle ricerche in luogo e la mia impressione e convinzione è che Hartmann Schedel sia la sola fonte per queste cose, per queste epigrafi. Su Conegliano Hartmann ha raccolto una curiosa etimologia. Nota quod Conegliam literali sermoni ad vulgari debet appellari Conegliano. Cioè Conegliano in veneto, Conegliano in italiano e invece in latino e zic litterale Conegliano. Quod quidem componitur et teutonico et boemico sermone. Quod et primum verbum teutonicum silice conil, id est rex latine. Et lano, quod est verbum boemum. Devo dire, io non mi sono informato sull'esattezza di queste cose perché... Silicet lano, id est campus, unde Conegliano id est campus regius, quia quidam imperator edificare in coavit castrum, quod est super monticulo, dum ad illas partes venisset victurus cum magno exercitu, eccetera. Cioè Conegliano deriva da König e lano, König, vabbè, sappiamo tutti cosa vuol dire, lano di Cecedere è una parola boema che significa campo, quindi Conegliano è il campo del re. Sulla via del ritorno a Padova, Hartmann e l'amico di studi letterari a Conegliano, Georg Finzi, vivono una buona avventura archeologica, del resto molto nota, la racconto qui perché siamo in Italia. In reddito al Paduan, Tarvisium civitatem nobilem per transibibus. Passano per Treviso. L'occasione è buona per fare una verifica storico-archeologico-letteraria. Inter opuscula mea bonarum literarum, opus rilanci, praedam, ritmorum autoris extavat, quem mercatores op sua lepida dicta ad urbem venetorum vocal. Cioè, Armachiedel dice, io avevo un manoscritto con le poesie di Freidach. Era una persona molto nota per i suoi lepide dicta e i mercanti tedeschi lo avevano fatto venire a Venezia. In urbe Tarvisina, il manoscritto però dice Patavina, mortem obisse refereva, cioè si raccontava che Freidach fosse morto a Treviso. Quare moti eius sepulcrum inea perquisibimus. Tandem in muro primarie ecclesie, Duomo, ab extra eius imaginem depictam reperimus, et eius epigramma tenis aranearum per Georgium Finzing prefatum plene mundatum. Cioè fuori sul muro esterno del Duomo di Treviso, non c'è più quel Duomo, ce n'è un altro, hanno trovato l'immagine e l'epigramma del poeta tedesco Freidach. E Georg Finzing avrà preso la scala, è andato su e ha tolto le ragnatele e l'hanno potuto vedere. Naturalmente è una leggenda questa, non si tratta del poeta Freidach, c'è un'opera già uscita nel 1910 che ha sfatato tutta questa leggenda, si tratta di un'altra persona, di un omonimo. Però, insomma, vediamo all'opera se non altro due archeologi, non archeologi classici, cosa abbastanza frequente nell'umanesimo, ma due archeologi medievali e umanistici, cosa non del tutto frequente, per quel che ne so io, insomma. E poi aggiunge Hartmann sui quoque ritmi, vale a dire le poesie di Freidach, latina a teutonica littera per scripti sunt. Conegliano e Treviso formano l'appendice della sezione dell'Opus Antiquitatum Scedeliano dedicato alle città venete. È formato di materiale direttamente raccolto sul posto e organizzato in una silloge che serva di supplemento a quelle già esistenti e di stimolo ad altri perché continuino a raccogliere e a ordinare antiquitates. Cioè, tutti conosciamo, abbiamo visto tutti il codice latino 716 della Biblioteca di Monaco, è una meraviglia, insomma. E in quel codice Schedel ha rovesciato materiale di silogi esistenti, però ha aggiunto anche materiale da lui stesso copiato, trascritto in Italia, in maniera da poter ampliare queste silogi epigrafiche. Ut posteri monumenta abeant, in quibus oblectari queant, ac adea amplius perficienda, allici et addere possi, ut tandem opus absolutum cum laude compleato. Cioè affinché alla fine finalmente abbiamo il corpus scriptionum latinale. Premessi alcuni cenni di storia padovana, Hartmann Schedel dispone nella sezione dedicata alle città venete le epigrafi padovane che ordina in un ordine in certo modo topografico. La prima zona di epigrafi raccolta da Schedel è la zona del Duomo ci dà l'epigrafe di Berta, l'epigrafe di Guido Leonico. L'epigrafe di Guido Leonico c'è ancora e si trova nella porta laterale di destra entrando nel Duomo di Padova. E poi l'epigrafe per Bartolomeo di Santa, l'epitafio, pardon, per Bartolomeo di Santa Sofia che vi ho già dato. La seconda zona così antiquaria archeologica di Padova esaminata da Schedel è il Palazzo della Ragione, dal quale Hartmann Schedel è rimasto profondamente impressionato. Palacium padue facile in Italia primarium, superbique operis, pretoriumque quo nullum in orbe pulcrius esse tenetus. Quam esse casu crematum, 1421, speciosiusque veneti construxero, ossacque titi livi conspicua eius fastigio collocato. Cioè, bruciato nel 1421, i veneziani l'hanno rifatto e ci hanno messo dentro le ossa di Tito Livio. Hartmann copia l'epigrafe a ricordo dell'incendio del 1420 e della ricostruzione del palazzo. Copia due epigrafi liviane, ossa titi livi, patavini, unius omnium, mortalium, eccetera, eccetera, e l'altra epigrafe liviana che ricorda la cessione di un braccio di Tito Livio ad Alfonso d'Aragona, Antonio Panormita poeta, legato suo orante. Cioè, Antonio Panormita è venuto a Padova e a nome di Alfonso d'Aragona ha chiesto un braccio, un pezzo, un osso di Livio e glielo hanno dato e hanno messo la lapide a ricordo sul Palazzo della Ragione. E inoltre informa che 4 sono le entrate del palazzo e che in singulis effigies egregia cum epigrammaticus ex sculpta extrat. E dalle epigrafi del giurista Paolo, di Pietro d'Abano, di Alberto da Padova e Bonaventura Badoia. La cosa è importante perché ci dà l'epigrafe in redazione, nella redazione in una redazione della quale si deve tener conto perché queste epigrafi sono state rimaneggiate nel secolo XVI. E a me pare, io sono stato là un po', ho guardato queste epigrafi, quella di Bonaventura Badoer non c'è più, ma ce n'è un'altra. Bonaventura Badoer mi pare che non ci sia più, che l'abbiano sostituito con un altro personaggio illustre. Oh, la sezione dedicata al Palazzo della Ragione è conclusa con le didascalie dei loci judiciorum cum imaginibus, cioè le didascalie dei dipinti che sono all'interno del palazzo in relazione agli scanni dove sedevano i giudici. Devo dire che Schedel non è l'unico dei tedeschi che ha copiato queste poesie dall'interno del palazzo, le ha anche Ulrich Gossenbrot nella sua miscellanea che ho già citato, ma ci sono anche in Codici di Vienne, cioè ai tedeschi quelle poesie dovevano piacere. E dal palazzo passiamo alla Basilica del Santo, insignis et cui rarissime sunt in Italia similes. Hartmann ha copiato l'epigrafe del sepolcro di Antonio Roselli, circa introitum ex latere sinistro, delle tombe del Gattamelata e del figlio Giovanni Antonio. I versi per l'epigrafe di Giovanni Antonio sono di Galeotto Marzio e le due tombe sono state volute da Giacomo Leonessa e si trovano in quella che attualmente è la Cappella del Sacramento. Copia l'epigrafe di Raimondino Lupi, oratorio di San Giorgio, Simone Antonio Montin Giovanni e Folco Lupi, chiostro della Magnolia, e infine i due distici della tomba di Aleandro Basilii nello stesso chiostro. Seguono 4 altri gruppi di memorabilia, dedicati rispettivamente a Santa Giustina, con epigrafi copiate quando ancora esisteva la Basilica Romanico-Gotica. Cioè, Hartmann Schedel non è andato nell'attuale Basilica di Santa Giustina, è andato nella Basilica antecedente e ha visto le epigrafi che c'erano, le epigrafi originali, le epigrafi della Basilica Romanico-Gotica. E qui di nuovo un problema di carattere critico-testuale rispetto alla tradizione letteraria del Salomonius e compagnia bella. E poi c'è una sezione dedicata all'università, c'è una sezione dedicata ai padovani illustri e c'è una sezione dedicata alla campagna padovana. E poi alla fine c'è un appendice. E nell'appendice Hartmann sistema le epigrafi che non sa da dove vengano, perché ha omesso di segnalare nei suoi appunti dove le aveva trovate. Do l'elenco di queste epigrafi non per sfoggio di erudizione, che è perfettamente inutile, ma per dare l'idea di quanta roba quest'uomo ha avuto la pazienza e la mania di copiare a Padova. Tebaldo Cortelieri, Gialli Eremitani, Guglielmo Rossi e figli, Cappella di San Felice al Santo, Jacopino Badoer Peraga, Eremitani, poi le seguenti tutti indistintamente al Santo, Bon Giacomo Sanvito, Paolo Freschi, Nicolò da Monselici, Federico dalla Vellongo, Guido Maltraversi, la moglie Costanza d'Este di Guido Maltraversi, Giacomo Crosano, Benedetto Galmarelli, Lorenzo Camozzi. Sezione dedicata agli uomini illustri. Padova viro spatavium doctrina clarissimos genuit. E l'elenco inizia con Livio. Il racconto delle scoperte relative di lapidi e di ossa, ma poi passa rapidamente a tempi più recenti. Petrum etiam de Apano, conciliatorem appellato, filosofie et astronomie usque ad magie suspicionem peritissimo. Musatum et lovatum, iure consultissimos, poesi ornatos, patavium cive sabut. Franciscus Zabarella, iure consultissimus, et Pileus de Prata, Romana Ecclesiae Cardinales, dignitatem litteris et prudentia ornavero. Marsilius et Paulo Post Ioannes Galeaziusque de Santa Sofia, Johannes Quoque Orologius et Paulo Post Antonius Cervisonius, excellentes medici, patavium patriam ex ornavero. Gli epitafi per Giacomo della Torre, Bartolomeo da Montagnana, di cui Hartmann Schedel ci ha conservato anche la fotografia. Pietro Roccabonella, Gaetano da Tiene, Raffaello Fulgosi, Raineri Assendi, Giacomo Alvarotti chiudono a loro volta la sezione degli uomini illustri. La meno interessante è la sezione dedicata all'università, perché in questa Hartmann Schedel si limita a dare il proprio privilegium doctoratus e l'orazione, la laudatio che per la sua promozione accademica tenne Matteolo Perugino. Breve è anche l'accenno al contado padovano, col letterario ricordo della petrarchesca qua e quello medico dei bagni di Abano. Quibus ea opitulentur morbis, Michael Savonarola, opere in id edito di Servit. E di Michele Savonarola, Hartmann non conosceva soltanto il Liber de ornamentis civitatis Padova. Molte delle notizie che Hartmann sa di Padova provengono dal Liber de ornamentis civitatis Padova di Michele Savonarola. Ma nella biblioteca di Hartmann noi troviamo ad esempio il De Aqua Ardenti, la Canonica de Febribus, il Tractatus de Urinis, la Pratica de Gritudinibus. E alla pratica dei gritudinibus Hartmann Schedel ha fatto delle aggiunte autografe, la dedica di Sigismondo Polcrasti, eccetera. I codici e gli appuntamenti dello studente norimberghese sono tanto importanti quando vogliamo chiarire la vita accademica degli anni padovani, che direttamente lo riguardano, come quando abbiamo bisogno di raccogliere materiale per i periodi precedenti. E questo sia per l'instancabile sua attività di trascrittore e per la sua mai sazia curiosità, come pure perché conservava nella biblioteca quanto a Padova e su Padova aveva raccolto in decenni precedenti suo zio o cugino Hermann. Giorgio di Verdenau, canonico di Augusta e morto rettore a Padova dopo un decennio di soggiorno di studio, è qualcosa di più di un nome per il necrologio che ne ha trascritto Hartmann. Giorgio Einger, degli Einger di Ulm, rettore a Padova, è facilmente situabile nella storia della sua famiglia e della sua città grazie alla laudatio di Giovanni da San Lazzaro raccolta da Hartmann. Quell'episodio di vita accademica rappresentato dalla cosiddetta commedia elettorale sopravvive perché Hartmann se ne fece una copia e perché Hartmann se ne trasse una seconda, conservata poi anche questa nella biblioteca di Hartmann. E questa è la ragione per cui si continua a ripetere che le due copie della commedia elettorale, che racconta una baruffa avvenuta all'interno della Natio Germanica per l'elezione del rettore, e tra personaggi che noi conosciamo, c'entra Konrad Schulz, c'entra Glockengisser, eccetera, eccetera, si dice continuamente che le due copie di questa commedia che esistono sono tutte e due di Hartmann Schedel. In realtà una è di Hartmann, l'altra è di Hermann. Le due scritture, quella di Hartmann e quella di Hermann, sono profondamente diverse. Però, mentre Hartmann aveva la ottima abitudine di firmarsi, Hermann si firma molto raramente. Però Hartmann di nuovo ci dà la possibilità di avere una prova paleografica del come è la scrittura di suo zio o cugino Hermann. Cioè, nel codice latino monacense 207, Hartmann ci indica chiaramente che ci troviamo di fronte ad una reliquia e ad un ricordo di Hermann. I fogli 4 retto 131 verso di questo codice latino monacense 207 sono occupati dai consigli di Antonio Cermisone. E Antonio Cermisone, noi abbiamo di nuovo il ritratto proveniente da questo codice. Ed è questo. Questo è lo stemma di Hartmann Schedel. A foglio 3 verso di questo codice Hartmann ha segnato una lunga nota. È la nota che ci dà la possibilità di avere le prove paleografiche del come scriveva Hermann e del come invece scriveva Hartmann. Per Hartmann non ce n'era bisogno perché firma, ma per Hermann ce n'era bisogno. Viri quoque studiosissimi artis medicine, prescritto tempore sua stecciones di Antonio Cermisone, frequentante sub mixe sua scritta observare. Cioè Antonio Cermisone era un professore che aveva molto successo e gli studenti correvano alle sue lezioni e ne trascrivevano i consigli, le opere. Interquos, cioè tra questi studenti, non infimo ingegno, ac solercia, excellit solertissimus artium et medicine doctor Hermannus Schedel patrus meus. Tra gli allievi di Cermisone c'era, e da non disprezzarsi, patrus meus Hermann Schedel. Qui prescritta et sequentia consiglia partim erisore suo, partim post suum obitum diligentissime collegi. Cioè i consigli che sono in questo codice, mio cugino o mio zio Hermann li ha raccolti in parte dalla viva voce di Cermisone, in parte li ha raccolti dopo la morte. Etista consiglia, per manum suam scripta, exordinazione sui testamenti, haput me, hat manum cedem, patrum suum disposuit. Cioè, per testamento, Hermann ha disposto che il codice coi consigli restino in mano ad Hartmann. Quam obrem, meliori ornatu ac decore cum prologo, ac premissis ornare decreto. Quindi, proprio perché è un ricordo di famiglia, Hartmann decide di far rilegare questo manoscritto, di farlo ornare e di premetterci un prologo. Ut sua accurata diligentia, ceteris nocior et ad salutem anime sue, memoria uberio fieri posse. Cioè, noi sappiamo che quello che è scritto in quel codice è veramente di mano di Hermann e abbiamo la guida per distinguere nell'ascito della famiglia Schedel quello che è autografo di Hermann da quello che è autografo di Hartmann. Chi conosce i benemeritissimi cataloghi monacensi della fine del secolo scorso sa che non sempre si riesce a capire se del codice lo scriva sia Hermann o Hartmann, perché c'è scritto A. Schedel. Con Michele Savonarola ed Antonio Cermisone c'è un terzo medico, Cristoforo Barzizza, che è stato pure maestro di Hartmann e che occupò la curiosità erudita di Hartmann, e per una ragione in più rispetto ai precedenti. Girolamo delle Valli, da cui Hartmann udì nell'anno accademico 64-65 Librum Nonum Rasis ad Almanzorem, imitatus est doctorem Christophorum in singulis in sua pratica. Cioè, Hartmann Schedel è andato a scuola da Girolamo delle Valli e si è accorto che Girolamo delle Valli in sua pratica aveva seguito i corsi tenuti 30 o 40 anni prima da Cristoforo Barzizza. Hartmann possedeva la pratica di Cristoforo, super nono Almansoris a capite usque ad pedes, come introduzione capitolorum terzi libri Principis Avicenne ed esposizione Gentilis Perusini optimi. In un volume, ancora una volta, al tempo stesso, testo medico e reliquiario di memorie storico universitario. Inutile dire che anche di Cristoforo Barzizza il nostro Hartmann Schedel ci ha conservato il ritratto, ed è questo. Resto convinto che il più importante soggiorno universitario di tedesco in Italia nella storia dell'umanesimo sia stato quello di Rodolfo Agricola, per le conseguenze filologiche che ne derivarono. Il decennio 1455-65 ha invece un valore non nella qualità ma nella quantità. Di molte persone apprendiamo relativamente molto su quello che esse fecero in ambiente accademico italiano. Poiché però l'umanesimo fu una rivoluzione anzitutto culturale e poi in letteratura e filologia, va da sé che le sue sorti dipendevano in primo luogo dalla conquista delle classi intellettuali ricche, giuristi, medici, chierici. Se la storia della presenza germanica nelle università italiane quattrocentesche è anche la storia di questa conquista, per nessun periodo è facile seguire da vicino gli attori come nella Padova di Valentino Eber, Ulrich Gossenbrock, Giovanni Pirkheimer, Sigismondo Meisterli e Hartmann Schedel. Danke Herrn Professor Sestini herzlich für seine so inhaltsreichen Ausführungen. Ich erspare mir hier eine Zusammenfassung dessen zu geben, es wäre auch gar nicht möglich. Aber ich möchte noch betonen, wie wertvoll es ist, dass wir nach den verschiedenen Gesichtspunkten, die wir jetzt verfolgt haben bei der Betrachtung des Humanismus, einmal jetzt sehr konkret gesehen haben, wie es in einer Stadt, in einer Studienstätte manches sich hier in der Schilderung, manches entwickelt, was uns die Schilderung von den bedeutenden, zuletzt genannten Parlamenten Studenten überliefert hat. Insofern, glaube ich, rundet sich damit unser Bild sehr wertvoll, ergänzt sich, dass wir einen Einblick in das Universitätsleben, auch in das Leben der Stadt wie Padua, mit keiner anderen haben wir derartige gute Überlieferung, was deutsche Studenten betrifft, erhalten haben. Wir sind, können also jetzt noch, für wann ist das Essen bestellt, für Per uno quando? Quando è previsto la colazione? Per uno. Allora abbiamo ancora tempo per la discussione di della relazione di Manzelli e la relazione di Sofia. Allora, sono particolarmente grato al professor Manzelli per la sua conferenza, perché mi conferma nel mio giudizio sulla storiografia umanistica, poiché col mio grande rammarico non pochi fanno gli storici tedeschi, miei connazionali e dei nostri giorni non sono ben disposti a riconoscere i nuovi principi introdotti dagli umanisti nella storiografia. Principi esposti così magistralmente nella relazione del canonico Manzelli. Mi permette una piccola osservazione da aggiungere, che riguarda l'importanza attribuita alla storia stessa dagli umanisti, cioè l'introduzione della storia come disciplina nuova e indipendente nel programma dell'insegnamento degli studi humanitatis, per la prima cerebridium, il patridio, eccetera, ma ampliando il triplo, mettono la storia come materia indipendente nell'insegnamento universitario. E ancora una volta, tante grazie. Io non ho da dire altro se non che ringrazio il dottor Bucchi per delle parole molto benevole nei miei riguardi, e per quello che riguarda questo punto particolare, sono ben lieto di accettarlo in pieno. Non ne ho parlato, come non ho parlato di altri aspetti della storiografia umanistica, vi sarete accorti, lo dico subito, che non ho accennato affatto ai rapporti tra storiografia e oratoria, che pure è uno dei punti centrali della cultura umanistica, perché io ho voluto dare al mio discorso proprio quel carattere che ho detto di appunti, cioè di rapporto di contatto tra uno studioso del Medioevo che si è trovato di fronte ai problemi dell'età umanistica. Ma comunque ringrazio il professor Luc per averci ricordato questo fatto estremamente importante, cioè la storiografia umanistica, la storiografia nell'ambito della cultura umanistica diventa una disciplina che si aggiunge alle tradizionali. Mi pare che questo sia estremamente interessante. Noi abbiamo cioè un allargamento, ancora una volta, della tradizione medievale relativamente all'insegnamento. Sie möchten mir zufügen, dass es dafür einen Ansatz bei Otto von Freising gibt, nicht? Auf den Lotzki besonders hingewiesen hat, auch die Geschichte als eine der Artes dazu zu fügen. Das ist aber damit, dann wird lange keine Rede, denn erst der Humanismus bringt dann da. Der Vorrede bringt in der Vorrede zu den Gesta Federicis, das ist bei Otto von Freising. Vielen Dank. Mit der neuen Kenntnis des Otto von Freising, den man im 14. Jahrhundert wieder besondere Aufmerksamkeit widmet. Gerade auch in Herrn Silvius de Colonna. Sì, il prologo dei Gesta Federici, però, se non ricordo male, si dice questo, ma c'è questa sensazione che, perciò c'è la lettera di Federico Barbarossa, è vero, una lettera che dà le fonti che Otto von Freising deve riprendere e rielaborare, diciamo così, su un piano retorico letterario, che è anche questo un aspetto estremamente interessante. Sì. Professor Manzelli ha delineato alcune caratteristiche della storiografia umanistica per differenza con la storiografia medievale. Io vorrei sapere se si può fare un'opera di questo genere, perché addirittura ancora di più la storiografia umanistica, per differenza con la storiografia classica. Se questo è utile. Perfettamente d'accordo. Disgraziatamente ci vorrebbe un. Non dico un'ora, ma una buona mezz'ora. Vedete, il problema a me sembra di estrema importanza, ma dalla storiografia classica, per quello che a me risulterebbe, io non sono uno storico dell'antichità classica, tengo a dirlo, il problema fondamentale mi sembra questo. Dalla storiografia classica si prendono soprattutto, ma qui i presenti possono correggermi se mi sbaglio, soprattutto il rapporto con il mondo della esposizione retorico-classica e il rapporto del giudizio morale. Quindi da ciò la influenza di Tito Livio da una parte e di Tacito dall'altra. Io in questo momento, e ritorniamo ancora naturalmente, ognuno sa quello che ha letto, io mi ricordo, per esempio, in questo momento penso soprattutto al De Bello Italico, un'altra opera in massima parte inedita, purtroppo ne preparava una, se non edizione, una pubblicazione rapida, diciamo così, Arsenio Frugoni, ma la morte gli ha impedito di condurlo a termine, ed è il De Bello Italico di Matteo Palmieri, dove v'è una massa, una quantità straordinaria di dati che egli aveva a disposizione, perché viveva nel 400, era la guerra che poi finisce con la pace di Lodi, se non mi ricordo male, ma questo materiale viene rielaborato, diciamo così, livianamente, cioè i dati che egli ha vengono ripresi sulla linea letteraria di Tito Livio. E qui siamo appunto a uno degli elementi che mi sembra che siano i rapporti, detti rapidissimamente, i rapporti con la storiografia classica. Diciamo che è questo un punto sul quale naturalmente potremo ancora discutere, se credete. Il problema dei discorsi inventati. Ecco, e nasce poi il grosso problema nella storiografia, è vero, nella storiografia classica, dei discorsi inventati, che poi, da che ormai ci siamo entrati, scusate, bisogna andare avanti, che diventano nella storiografia tardo rinascimentale e poi seicentesca i discorsi inventati, ma che sono anche consigli politici. E quindi voi vedete come la storiografia classica, entrando nella storiografia umanistica, finisce poi in una direzione che è estremamente diversa da quella originaria. Ma qui il discorso ci porta troppo lontano dal nostro umanismo. Prego, salutare. Ja, wenn ich bitte in Deutsch sprechen darf, ist mir lieb. Sie haben angedeutet, dass die Historiographie, also die Geschichtsschreiben im Humanismus, einen mehr oder weniger pragmatischen Zweck erhält. Und weil wir schon jetzt dabei sind, das Verhältnis zwischen also humanistischer Geschichtsschreibung und antiker Geschichtsschreibung irgendwie zu klären oder darzustellen. Wie sehen Sie praktisch den Unterschied zwischen, sehen Sie einen Unterschied zwischen der pragmatischen Geschichtsschreibung, wo man sagen kann, dass schon Ansätze in der Antike da sind, und der pragmatischen Geschichtsschreibung, also wie sie der Humanismus dann bietet? Und ist das eine Art Wiederaufgreifen oder eine Weiterentwicklung? La signorina pone il problema, si riferisce a quanto io ho accennato circa una storiografia pragmatica, e un po' ricollegandosi a quello che era stato già detto, si domanda, bitte kontrollieren Sie, wenn ich gut verstanden habe, wenn ich recht verstanden habe. La signorina si domanda se in questa storiografia pragmatica noi abbiamo una pura e semplice continuazione della storiografia pragmatica di tipo classico, o se noi abbiamo uno sviluppo diverso, uno sviluppo nuovo. Ecco, io direi, per quello che a me sembra e sulla base di quello che io so, ma ripeto, qui potete sempre correggermi, io direi che noi abbiamo uno sviluppo per taluni aspetti nuovo. Senza dubbio, come abbiamo già accennato, alcuni elementi della storiografia classica vengono ripresi, ma certa pragmatica encomiastica della storiografia umanistica, non so quale aggancio possa avere con quella classica. Beh, non so, io adesso ho pensato per esempio a Tucidide o così qualcosa, no? Ma Tucidide, il finalismo di Tucidide è un finalismo patriottico, relativo al mondo ateniese ed ai problemi della città di Atene nella relazione del mondo panellenico. O lei pensa all'apologia, all'apologia per i morti della prima guerra spartano-ateniese? Pensa a quello. Ecco, veda, lì direi che vi è sempre un fine relativo alla storia della propria città. E in questo senso abbiamo, senza dubbio, lei in questo momento mi potrebbe dire, c'è la storia di Leonardo Bruni per Firenze o certe altre storie. Io direi però che, per quello che a me sembra, intendendo parlare di storia pragmatica e finalistica, io intendevo proprio qualche cosa di più specificamente caratteristico. Ne do un esempio. Nella seconda metà del 400 riprendono in Francia le ambizioni politiche per l'Italia meridionale. Un gruppo di nobili napoletani che è sfuggita a Ferdinando, a Ferrante d'Aragona e alla sua repressione finisce in Francia. Ebbene, in Francia si elabora una storiografia politica di cui ha dato delle indicazioni Ernesto Pontieri, ancora quando io ero studente universitario, in cui si mostra che la storia del Regno di Napoli, la storia del Regno di Sicilia, è prospettata in funzione filo francese, non più filo angioina, perché la casa d'Angiò non ha più potenza politica, ma filo francese. E mi riferisco all'articolo di Ernesto Pontieri su Giovanni di Candida, Jean de Candida, va bene, che è un articolo estremamente interessante a capire quello che io intendo per storia pragmatica. Così, per esempio, io accennavo al Bonfini. L'opera del Bonfini, nel momento stesso in cui è veramente una enorme enciclopedia della storia ungherese, è però rivolta al fine di dare agli ungheresi la coscienza della propria realtà nazionale e della propria funzione storica. Quindi, continuazione, se vogliamo, della storia pragmatica e, in certi casi, prendiamo Tacito, moralistica dell'antichità classica, ma nello stesso tempo io direi Erweiterung, allargamento ad altri fini che la storiografia classica non sempre comprendeva o non comprendeva sempre con la precisione e la chiarezza di certi umanisti. Ecco, direi che, per esempio, una Sforziade, che io sappia, nella storiografia classica non c'è. Non so, pensiamo un momento a certe opere concrete per non rimanere in dei discorsi generici, è vero, non la vedo, ecco. In teoria gli umanisti ripetono sempre il famoso detto di Cicerone, historia magistra vitae. Ecco, sì, là c'è un principio di storiografia pragmatica, sì. Che si sente, sì. Si trova sempre di nuovo. Ripetuta, sì, ritorna. Anche questo è un altro aspetto di questo mondo pragmatico. Comunque l'elogio nel senso proprio tecnico del termine, è qualche cosa che direi è più, molto più umanistico che non classico. Quindi c'è un processo di differenziazione e di spinta in avanti. Volevo accennare a due cose della relazione del professor Manzelli rapidamente. Cioè, questo uso, ricorso a nuove fonti di cui lei ha parlato, in quanto la storiografia umanistica si serve anche di documenti, di archivi, di cancellerie. Non so quale sia il primo esempio. È qui. Io, se permette, io conosco un esempio molto famoso, cioè nella storia contemporanea di Leonardo Bruni. Quando si riferisce alla battaglia di Giangaliazzo Visconti contro Firenze, cita, non solo cita, ma proprio inserisce le consulte e pratiche e il famoso passo di Rinaldo Giangaliazzi quando si trattava quando si discuteva proprio il sistema di Firenze e quello di Milano. E lì tutti praticamente erano i discorsi che Rinaldo Giampigliazzo aveva fatto nei consigli che lui cita, e li cita dall'archivio. Ma non so se anteriormente c'erano già, non li conosco prima. Ma direi anch'io in questo momento non ne vedrei degli altri, ma certo siamo... Con Leonardo Bruni siamo tra i primissimi, anche perché in Leonardo Bruni questo interesse per il documento nasce da un interesse civile diverso. Non ho i nomi presenti, ma vorrei fare la domanda: se nella storiografia veneziana non si è cominciato molto presto a usare con Andrea Dandolo negli archivi, a guardare i documenti. No, Andrea Dandolo certamente ha conosciuto i documenti di archivio, questo lo ha messo in luce il collega, Arnaldi in quel suo lavoro su Andrea Dandolo. Però il problema è, diciamo così, il problema è non il fatto se si siano utilizzati o non documenti. Ripeto ancora una volta, nel XIII secolo, all'inizio del XIII secolo, Riccardo da San Germano è prezioso perché ci riporta pezzi interi, è vero, cioè documenti interi, è vero, il famoso privilegio de beneficis di Federico II è proprio ripreso da Riccardo di San Germano, ce lo dà solo lui. Il problema è vedere fino e in che modo vengono utilizzati all'interno della cronaca. Direi che con Andrea Dandolo, ma siamo in un'epoca precisamente caratteristica, con Andrea Dandolo noi abbiamo degli inizi di utilizzazione in senso umanistico. Ecco, direi che con Andrea Dandolo abbiamo già degli elementi che potrebbero far pensare un'utilizzazione di tipo umanistico, cioè il documento non riportato brutalmente, ma ripensato nell'interno di un discorso organico. A Bruni ho fatto il confronto, perché si può facilmente fare tra la storia, insomma l'opera storica, e i documenti dell'archivio che ancora ci sono. E così si vede come ha adoperato, perché lui ne fa poi una ideologia di questi documenti, perché discute il sistema politico di Firenze. Ma appunto, l'interessante è l'uso del documento, cioè non è il fatto materiale del documento, ma è l'uso. L'uso. Direi che se il mio discorso oggi ha un senso, è proprio in questo aspetto, il modo diverso con cui cose che c'erano anche prima vengono riprese e inserite in un discorso nuovo. Mi spiego, quando Riccardo da San Germano ci riporta un documento, ci dice: l'imperator fecit legem novam quae ec est. Due punti e poi viene la legge nuova. Dopodiché a lui passa ad un'altra cosa, pacifico e tranquillo. Negli storici umanisti questo non succede, cioè questo, il discorso, il documento viene relativamente parlando inserito in un discorso che possiamo dire discorso finalizzato storicamente. Nel caso specifico il problema è costituzionale, il problema costituzionale del Pino e Milanese. Ecco. Poi un'altra cosa, lei ha citato le due opere, cioè Andrea Biglia e Antonio Bonfini, e parlava che qui abbiamo una visione molto realistica del problema, cioè del problema... Una visione diversa rispetto a quella del Medioevo. Diversa di fronte a quella, per esempio, di Rustichello da Pisa. Io volevo chiedere a Leona, qui abbiamo di fronte anche due situazioni diverse, perché Rustichello da Pisa fa un racconto di quello che Marco Polo ha visto, mentre Andrea Biglia, nel periodo di Andrea Biglia e Bonfini, il problema dei turchi era un problema attuale. Un momento, andiamoci piano. Il gran Khan dei Tartari era il Khan dei famosi Tartari che erano a 20 km dalla Polonia. Stiamoci attenti. Sono quei Tartari che hanno avuto rapporti con il papato, che hanno mandato ambasciatori con i papi, eccetera. Ebbene, Rustichello da Pisa e Marco Polo potrebbero aver dato all'Europa, diciamo così, una storia tartarologica, dico per dire, quale non esisteva un altro al mondo e non ne sarebbe, purtroppo non ce l'hanno data e non esisteva. Quindi la situazione è proprio perfettamente identica. Ci troviamo di fronte a dei popoli con i quali si è in rapporti concreti, precisi. I Tartari stanno a Marco Polo, pressappoco come i turchi stanno ad Antonio Bonfil. Però, quando si tratta di parlarne, i Tartari che cosa diventano in Marco Polo? Diventano i portatori di questo... Prima di tutto, curiosamente, si vedono solo i Tartari di Cina. Sappiamo che ci sono gli altri. Tant'è vero che Marco Polo ci dice che in tutto il mondo dei Tartari si va con la targa d'oro che equivale ad un passaporto di fronte al quale tutti tremano di paura, perché chi non rispetta quel passaporto rischia immediatamente la morte. Però di questo mondo tartaro, che egli conosceva perché aveva fatto il Kissinger della situazione, insomma, è vero? Ebbene, lui in Rustichello da Pisa diventa tutt'altro. Perché? Perché Rustichello sa che ai contemporanei sarebbe interessato quello, e non il racconto dell'Orda d'Oro o di quello che c'era, vero, in Persia e via discorrendo. Quindi non è che ci siano degli abissi fra queste due opere, però c'è nell'una la tendenza a venire incontro a un punto di vista diffuso, trasformare il racconto storico in un episodio romanzesco perché gli altri lo leggano. Il Biglia, che scriveva probabilmente, per, se non ricordo male adesso, per l'impero, perché purtroppo io ho dovuto mettere insieme questi appunti in momenti in cui le biblioteche sono chiuse, quindi non sono potuto tornare alla biblioteca Angelica dove c'è il manoscritto del Biglia, ma se non ricordo adesso male, nella lettera a Sigismondo si parla di, tu hai dei problemi di questo genere, vero? E Bonfini parla dei problemi concreti che il Regno d'Umbria e Matteo Corvino hanno, perché i turchi sono lì. E l'interesse è profondamente diverso. Cioè si esce dal romanzesco, anche lì si potevano creare sui turchi, c'è tutta una serie poi di letterature strane, di fatti romanzeschi, di corretto. Noi ci troviamo di fronte ad un notevole impegno storiografico. Tanto che un collega orientalista, il Bausani, che probabilmente le conosce almeno di nome, al quale mi sono rivolto, che è tra l'altro anche turcologo, mi diceva, dice, ma quest'uomo da dove le ha prese queste notizie? Perché alcune sono di straordinaria esattezza. E io non lo so, io devo dire, lui non parla di niente, dice che ha avuto delle notizie da persone che conoscono bene le cose e che le ha utilizzate. Ma chi siano a questo, allo stato attuale delle cose, io non so. Grazie. No, no, ma è importante perché cerchiamo... Non avevo capito bene questa... No, no, è proprio insomma, con Marco Polo, la situazione è estremamente simile, perché tutti i mercanti che appena escono di là da Costantinopoli hanno a che fare con Tartari. Li hanno, quelli, i mercanti genovesi e veneziani che vanno nel Mar Nero, vabbè, sono a contatto continuo con il mondo tartaro, non ne dicono niente, vero? C'è questa Cina mitica, e Marco Polo conosceva, invece aveva attraversato proprio tutta la Tartaria, perché era partito da Lajazzo, cioè praticamente dall'Asia Minore, e l'aveva attraversato il Caucaso, il Karakorum e tutto il resto. Quindi è interessante il vedere come la testa degli uomini si sia venuta trasformando nel giro di 100 anni. Grazie. Forse bisognerebbe comprare non Marco Polo, ma Giovanni Bianne, di Bianne Capite e Guilherme von Humboldt. Questo è vero. Però Giovanni... Questo è un uomo che è stato scoperto accanto al falsificato della Vinland Map, che ci sono tre testi sui tatari della metà del 200 che servono proprio a informare la cristianità d'Occidente sui pericoli che venivano da parte dei tatari. Guardi, quello... Danno proprio un'informazione utile e non una... Non una favola, non un romanzo. Veda, anche se parlano di tutte le cose, però diciamo. Possiamo farci, però dobbiamo porci un problema, è giustissimo. Noi abbiamo anche testimonianze, diciamo così, non romanzate, però mi scusi se le faccio notare, che si tratta di testi ufficiali e ad uso privato. Cioè sono dei documenti di Stato, per così dire, che hanno avuto diffusione relativamente parlando limitata e che sono serviti praticamente alla Curia Pontificia e all'ordine, soprattutto all'ordine francescano, che aveva dei problemi missionari. Ma noi sappiamo tanto bene che l'opinione generale sui tartari qual era? Che i missionari quando andavano su Tartari partivano in 12 persone e poi ne arrivavano due, perché lungo la strada gli altri per la paura andavano via. Perché? Perché l'opinione corrente non è quella ufficiale, ma è proprio quella che io direi leggendaria. Quindi è interessante il vedere proprio il rapporto tra il documento ufficiale e la voce, la opinione che si forma. Non so se mi sono spiegato, perché è questo il punto che io direi. Giovanni di Andercarpine, Guglielmo di Lodbrok, ricordo la Montecroce, danno delle relazioni che sono sì ufficiali, ma che tendono ad essere relativamente parlando limitate. E comunque sono racconti di viaggio più che opera di storia. Questo io direi è vero come fatto generale. Però è quello che lei dice è interessante per mostrare, per un altro fatto, l'osservazione del professor Elze è importante per un'altra questione. Io vi ho detto che nel passaggio dalla storiografia medievale alla storiografia umanistica noi non abbiamo avuto un taglio drastico, vero? Perché? Proprio perché c'è stata una lenta opera di preparazione di cui naturalmente anche queste opere di cui si sta parlando sono state la preparazione ma il discorso purtroppo sarebbe molto lungo, perché per esempio lei conosce benissimo la lettera che viene mandata a Federico II dopo la battaglia di Liegnitz, dove il mondo tartaro ancora una volta diventa qualcosa di pauroso, di drammatico, di diabolico, perché la fantasia colora il dato storico. C'è ancora qualcuno? No, io mi dispiace, non vorrei monopolizzare la discussione. No, se ci vengo, perché il tempo... No, poi abbiamo qualche... qualche domandina, caro Sottili. Allora, abbiamo ancora... Anche se purtroppo non possiamo... Tu hai domande? No, io volevo... C'era un... Io per esempio volevo sentire un momento Giano Parrasio, che è Giano Pannonio, che è contemporaneamente studente a Padova, ma è anche scolare di Guarino Veronese. Successivamente. Ah, ecco, successivamente. Adesso avevo perso il senso della cronologia. Il curriculum normale, prima si va alla scuola di arti e poi si passa alla scuola di un maestro affermato. Di medicina o di giurisprudenza. Dottoressa, prego. No, ma guardate, no, è adesso, meglio, magari me le fate a parte, non perché dobbiamo, se Manzelli rimane, io e possiamo Sottili, domani, ecco, possiamo riprenderla semmai domani. Dopo la mia conferenza sulla storiografia umanistica tedesca, le note anche, appunti che faccio, vorrei fare io. Ma professor Sottili non c'è più domani, parte oggi. C'è qualche domanda al professor Sottili? Herr Professor, gibt es eigentlich im Vergleich dazu jetzt auch das, also jenseits der Alpen übertragen, das Gebiet jetzt? Sie sagen, dass eben deutsche Humanisten sind nach Babel zum Beispiel, also in italienische Städte gekommen, um sich dort auszubilden auf Universität. Gibt es jetzt auch den umgekehrten Fall, ausnahmsweise aus entgegengesetzter Seite? Ein paar miserable Leute, die versuchen zu leben, indem sie den Deutschen behaupten, Latein beibringen zu müssen. Peter Luder, Publicius, Finariensis, ein paar, meine, wir sprechen von Humanisten, von deutschen Humanisten, die Italien kamen. Es waren Deutsche, die reich waren, auch normalerweise aus guten Familien, kamen, Freunde hatten und so weiter und so fort und kamen, um hauptsächlich Jura zu studieren. Antonia, kanonisches Recht und auch Zivilrecht, es ist die Zeit der Rezeption. Sie kamen nach Italien und sie mussten im humanistischen Milieu leben. Aber ihr Hauptziel war das Studium der Jurisprudenz und der Medizin. Erst danach die humanistische Ausbildung. Die Italiener, die nach Deutschland gingen, hatten humanistische Waren zu verkaufen. Und traten auch tatsächlich als Orator, als Poeta. Und wanderten von Schule zu Schule und boten ihre neue Wissenschaft. Aber bis Agricola, bis zur Zeit, als von Dalberg, Agricola und Johannes von Pleningen nach Heidelberg holt, gibt es keine philologische Tradition im humanistischen Sinne an deutschen Universitäten. Also was Publicius erzählt, ja natürlich, wir haben also die Studienhefte seiner Studenten oder seine eigene nicht, aber die Studienhefte seiner Studenten. Er kommentiert einen Brief von Petrarch, er kommentiert die Vita Pauli und die anderen heiligen Leben des Hieronymus, er kommentiert Briefe von Cicero und so weiter. Aber eine humanistische Rezeption in großem Stil. Bis der Agricola nicht in Heidelberg anfängt, über Griechisch zu reden und Textkritik zu machen, glaube ich, kann man nicht reden. Also Agricola tatsächlich konnte, hatte in Ferrara das Handwerkzeug der Textkritik gelernt und besaß Griechisch wirklich gut. Da fängt es an, da fängt wirklich der Weg, der zu Erasmus führt. Ja, man könnte also sagen, dass die Deutschen in Italien zu lernen hatten, während die Deutschen den Italienern das nicht bieten konnten. Ja, das glaube ich. Aber darf ich eine Frage stellen? Wir sprechen, haben jetzt noch einmal davon gesprochen, dass reiche Deutsche in Padua studieren, möglichst Medizin und Jus, um viel Geld verdienen zu können später. Aber Sie haben auch von einem Schustersohn gesprochen, nämlich Johannes Roth, der später Bischof von Breslau geworden ist. Wie hat reicher Schuster. Ein reicher Schuster? Bin ich nicht sicher. Wie kommt der Schustersohn nach Padua und wie lebt er dort? Sie sprachen davon, Barozzi habe ihn als seinen Schützling bezeichnet. Hat Barozzi ihm das Studium finanziert? Das weiß ich. Er passt nicht zu ihren reichen Studenten. Agricola ist nicht reich, er kommt als Tutor, als Lehrer der Grafen von Oettingen. Nee, ich glaube von Oettingen nach Pavia. Roth kommt zweimal nach Italien, nach Padua. Er kommt zuerst nach Padua, geht zur Universität und er spürt, er ist nicht vorbereitet. Verlässt die Universität, geht weiter nach Bologna, hört Lamola. Geht weiter nach Rom, hört Walla. In Rom aber ist er schon Beamter in der Kurie. Dann geht er nach Deutschland. Dann macht er die Bekanntschaft mit Piccolomini. Ist, ich glaube, im Dienste von Ladislaus Postumus. Und es gibt einen Brief von Roth an Piccolomini über die Ermordung von also diese ganz schreckliche Sache, die nach der Schlacht von Begrad passiert ist, wo der Graf Ulrich von Zwilly wurde von Johannes Hunyadi oder von Jürgen Thiemann umgebracht. Und Roth berichtet über dieses Ereignis. Nachdem er die Erfahrung der Wiener Kanzlei gemacht hat, oder der Kanzlei von Ladislaus Postumus, kommt er wieder nach Padua und promoviert. Kommt aber nur, um zu promovieren. Also, das erste Mal war vielleicht A. Das zweite Mal war aber sein Leben nebenan gesichert. Aber dass oft Deutsche als Begleiter von Adligen kamen nach Italien und auf diese Art und Weise studierten, stimmt durchaus. Aber andererseits kamen oft Leute, die also Kanoniker in Würzburg waren, Kanoniker in Bamberg, Kanoniker in Augsburg, Domherr in Günzburg und so weiter und so fort. Also, wir hatten einen sicheren Leben, Werdenau, von dem ich gesprochen habe, der war Domherr in Augsburg. Enger war auch. Ich glaube, man sollte noch dazu bedenken, dass wir noch nicht die Fünften kennen, die er von wem? Von Roth? Von Roth, in dieser Zeit. Ich kenne die nicht. Ich kenne auch nicht, aber wir haben auch nichts. Aber aus seinen Briefen der Römerzeit geht er vor, dass er in der Kurie war. Und da hat er sich schon verifiziert sicher lassen. Allora. Dopo questa alimentazione spirituale, andiamo all'alimentazione confessa. Ci vediamo allora o alle 3 all'ingresso del museo.